известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I want to focus on protecting the people because I believe that the most important thing we have to do is win the confidence and support of the people for their own government. I think that's key to victory. Sarebbero dunque 465 nel solo mese di maggio le esplosioni causate da bombe artigianali piazzate sul ciglio delle strade afghane, il doppio del 2008, è una notizia che esce oggi sul New York Times, nell'edizione online, citando fonti militari statunitensi. È una delle tante informazioni che quantifica numericamente l'escalation di ciò che sta accadendo in Afghanistan, mentre si attende per domani il rientro in Italia del parà ucciso. Abbiamo in collegamento, un collegamento fortunoso per il quale ringraziamo particolarmente Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore da Herat, dove credo sia tra l'altro sul punto di prendere un volo, ma per un breve aggiornamento sulla situazione. Ciao Alberto. Eccomi, buon pomeriggio a voi. Alberto, la domanda principale che ti vorrei porre in relazione alla situazione in Afghanistan è un po' quella che serpeggia nell'inquietudine nazionale, naturalmente all'indomani dell'attacco e della morte di questo altro soldato italiano. È una domanda un po', come dire, un po' infantile, un po' ingenua, ma credo anche necessaria. E la domanda si potrebbe formulare così: è questione di italiani oppure è questione di guerra? E necessariamente anche di italiani. Insomma, gli attacchi a cui stiamo assistendo sempre più ravvicinati riguardano a tutti gli effetti il nostro contingente o sono invece una produzione, a loro volta un effetto di una risposta a una evidente controffensiva che è quella che è stata scatenata da americani e inglesi prima separatamente e poi in modo congiunto nelle ultime settimane? Cosa pensi? Ma io mi sento di poter rispondere che la cosa riguarda gli italiani semplicemente per il fatto che il contingente italiano, che peraltro ha il comando di tutte le operazioni NATO nella regione di Herat, sta facendo le cose giuste, sta facendo quello che ci si aspetti che faccia con il mandato internazionale che gli è stato affidato, cioè quello di assicurare la protezione della popolazione e delle forze di sicurezza afghane che devono fare il loro dovere, cioè cercare di portare legge e ordine in un paese dove da decenni legge e ordine non esistono. E non dimentichiamo che ieri il caporal maggiore della Folgore, Alessandro Divisio, è stato ucciso mentre faceva la scorta a dei soldati afghani che stanno costruendo una caserma, quindi un mandato perfettamente in linea con quello che viene richiesto. E che siano colpiti gli italiani è sintomatico del fatto che l'Italia si sta impegnando molto in questa regione, si sta impegnando dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista della collaborazione civile con la popolazione, del sostegno anche alla popolazione civile per quanto possibile. E tutto questo naturalmente dà fastidio ai talebani. Non certo. È un attentato contro l'Italia, è un attentato in realtà contro la vita degli afghani. Certo, certo. Ma quali sono le tue sensazioni riguardo ai nuovi livelli di intervento, l'offensiva americana e quella britannica e la presenza italiana così impegnata nelle ultime settimane? Ti sembra stiano agendo nella direzione giusta, che gli effetti siano quelli sperati, che la strategia sia quella corretta? Credo che sia la strategia corretta, nel senso che lo era anche molto tempo fa. Certo. Cioè, le cose che si stanno facendo adesso dovevano essere fatte purtroppo molto tempo fa, quando la guerriglia talebana non era ancora ritornata in forza, cosa che è avvenuta a partire dal 2006. C'erano stati 4-5 anni buoni in cui si sarebbe dovuto prendere il controllo delle province afghane, entrare in profondità e cominciare a fare un lavoro non soltanto di sicurezza legato al settore militare o di polizia, ma anche a quello della ripresa economica e della ricostruzione del paese. Lo stiamo facendo tutti in ritardo, non soltanto ovviamente gli italiani, ma tutta la NATO e anche gli americani stessi. Per questo che adesso c'è anche una reazione come dire, molto forte. Tu citavi prima un dato molto, molto evidente e molto preoccupante. Quindi anche tu hai la sensazione che a un certo punto l'operazione non sia stata conclusa, che sia passato un po' in secondo ordine, lo scenario iracheno è diventato primario e in sostanza il lavoro in Afghanistan non è mai stato finito? Ma certo, perché nel 2003, teniamo conto una cosa, pensate che nel 2001, quando viene abbattuto il regime del Mullah Omar, in realtà i soldati americani dentro al territorio afghano non sono più di 150-170, perché il grosso del lavoro viene fatto dalla coalizione dell'Alleanza del Nord, dei Tagiki, degli Uzbeki, che conquistano con il sostegno dei bombardamenti americani il territorio. Dopodiché la presenza americana viene progressivamente ridotta e poi a quasi all'omicino quando nel 2003 comincia la guerra in Iraq. A quel punto tutti gli sforzi sono stati assorbiti lì e qui si è riuscito con molto ritardo a un degrado della situazione che era cominciato già un paio d'anni fa. Senti, il presidente Obama ieri nel rispondere a domande ai giornalisti che gli parlavano già di una eventuale preparazione di una exit strategy dall'Afghanistan, ha risposto con una frase secondo me interessante. Ha detto: ci vorrà tempo, forse almeno un paio d'anni di sforzi militari ancora più ingenti, quindi serviranno altri anni per aiutare e sostenere le forze locali, durante i quali si potrà pensare a una riduzione delle forze militari in campo, ma per il breve periodo certamente sono necessarie più truppe della NATO, non meno. È chiarissimo in questo senso l'indirizzo, il pensiero di Obama. L'Afghanistan, contrariamente all'Iraq, deve essere una questione a partecipazione collettiva. Soprattutto io dico, attenzione, questo non è tanto il momento di pensare a un exit strategy. Certo. Più che a un exit strategy bisogna pensare alla necessità di stare in questo paese nel migliore dei modi, cioè nel modo più efficace possibile. Ci staremo il meno possibile se saremo il più efficaci possibili, ecco. Cioè, quindi anche se serviranno più uomini, se servirà anche un maggiore impegno sul fronte civile della ricostruzione economica, nella necessità di assicurare al paese le condizioni proprio per la ripresa dello Stato afghano, per la costruzione dello Stato afghano e delle sue istituzioni. Sta andando abbastanza bene, per esempio, la ricostruzione dell'esercito nazionale, che è un punto molto importante per tenere insieme un paese con forti divisioni tecniche, ma questo non basta, ci vuole il resto. Più che appunto a uscire dall'Afghanistan bisogna cercare di entrarci un po' anche con la testa, e nel momento in cui ci si entra forse magari di più mentalmente, forse saremo anche in grado di capire meglio come tornarcene a casa tutti, e anche con grande vantaggio forse della popolazione afghana stessa. Bene, ti ringrazio Alberto, non ti rubo altro tempo, so che il tuo aereo sta per partire. Era Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore da Herat in Afghanistan, un collegamento che siamo felici di aver realizzato, anche per aver ascoltato frasi, considerazioni come quelle che Alberto ci ha appena espresso, prima di pensare a uscire dall'Afghanistan e a costruire una exit strategy non appena, no, all'indomani della decisione di sistemare le cose nel modo migliore possibile in Afghanistan. Appunto, è bene pensare a come entrare anche mentalmente, anche psicologicamente, anche con una progettualità seria, completa, strutturata nel modo più completo e assortito possibile in questa realtà complessa che ha bisogno di soluzioni che devono essere naturalmente quelle giuste. at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Sono giorni di rievocazioni, sono giorni in cui si parla, si torna a guardare frequentemente all'indietro, al 1969, l'anno della Luna, l'anno di Woodstock, l'anno in cui una parte del mondo ha cambiato il suo andamento, ma sono anche giorni nei quali l'attualità è così pressante, così ravvicinata, che collegamenti come quello che abbiamo appena fatto con Alberto Negri ci restituiscono in un certo senso la dimensione della rapidità, anzi, dei fatti che mutano, degli scenari che si modificano, al di là di quanto poi naturalmente vedremo nel momento della celebrazione. Domani c'è questo rientro della salma del Parà ucciso, sarà un momento di riflessione e di dolore. Jefferson continuerà comunque a seguire lo scenario afghano e con esso tutto quanto accade nel mondo. Ci diamo subito le notizie internazionali attraverso il nostro spazio 360. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Allora, cominciamo. Allora, cominciamo anche ad Oriente, in Cina ci sono notizie delicate che arrivano soprattutto dallo Xinjiang, che rimane un focolaio di instabilità, però Stefano, vorrei partire in maniera un po' più leggera, perché oggi, facendo il mio consueto giro su China Daily, sul sito del più importante giornale in lingua inglese dalla Cina, mi sono imbattuto nel faccione di Shaquille O'Neal, insomma, che a dispetto di un'ormai lunghissima carriera rimane ancora molto popolare nell'NBA, ma non solo, direi anche in Cina. Si vede Shaq in una posa un po' strana, sembra che stia facendo quei balletti che facevano le Bengals quando cantavano in stile egiziano. In realtà si trova, è stato immortalato, fotografato con un monaco buddista, perché si è cimentato nel Kung Fu. Dice che ha fatto un bel giro tra i templi buddisti di Zhenzhou, che è una città del centro della Cina, ed è rimasto stregato dal Kung Fu. E ci sono poi ampi dettagli, tra l'altro, sul suo blog, per chi ne volesse sapere di più. Insomma, dice che ha visto tantissimi posti, è rimasto incantato da tante situazioni, però in particolare questo tempio Shaolin di Zhenzhou lo ha davvero colpito molto. E insomma, poi si è cimentato nel Kung Fu, gli è piaciuto molto e dice, insomma, che questo l'ha commosso, e poi ha salutato dicendo Buddha ci benedica. Quindi insomma, uno Shaq in versione orientale, in versione lottatore di Kung Fu. Bene, lo rivedremo al rientro, sai che ha cambiato squadra, no? Certo, c'è anche una bella accoppiata nella nuova certo, squadra. Certo, no? Certo, giocherà con LeBron James a Cleveland, vedremo cosa resta cosa da palatifini. Sì, del giocatore, non dello showman, che mi sembra stia prendendo progressivamente la prevalenza, no? nella circolazione del personaggio, l'icona di Shaquille O'Neal. Un'altra icona che circola, no? In questi giorni appunto di rievocazioni, vi parlavo del 69, di questo 69, 1969, che viene riguardato come il momento del distacco forse dal Novecento classico, no? Dal XX secolo classico, e dell'avvicinamento al mondo veramente contemporaneo. C'è un altro anniversario che guarda all'indietro, solo di 10 anni, invece al 99, ed è quello che ricorre domani, relativo alla prematura scomparsa, al momento che aveva solo 39 anni quando è morto, di John Fitzgerald Kennedy Jr., ovvero di John, ovvero del figlio del grande presidente americano degli anni 60, e di quell'assurdo incidente che lo vide coinvolto in volo per una vacanza, per partecipare al matrimonio di un parente all'isola di Martha's Vineyard, che è un po' il giardinetto di casa della famiglia della famiglia Kennedy, ma dove però la stessa famiglia Kennedy ha assaporato disastri di ogni genere, e di uno di questi disastri, tra l'altro, vi racconteremo presto, rievocando un altro anniversario, un altro 1969, quello che andò in scena nella isoletta gemella di Martha's Vineyard, che si chiama Chappaquiddick, il 18 luglio, ed ebbe come protagonista, tutto in negativo, un altro Kennedy. Vedete le ricorrenze, ovvero quel Ted Kennedy che è chiamato, soprannominato l'ultimo leone, è ancora al centro delle cronache americane adesso, 40 anni più tardi, in questa sua battaglia per l'appunto da leone contro la malattia, contro il tumore al cervello che l'ha condannato, ma che comunque non lo ha vinto. C'è parecchia stampa sui giornali, parecchia articolistica sui giornali americani relativi al decimo anniversario della morte di John John, un personaggio visto in positivo, visto come la grande capacità di interpretare un cognome senza sentirne troppo, senza essere oberato troppo dal suo peso, un giornalista strano che provò tra i primi il gusto dell'interazione fra tecnologia e stampa e carta stampata. Ci fu questo effimero mensile chiamato George nel senso di Washington, di cui John Kennedy fu il direttore, il principale editorialista e intervistatore, che viene ancora guardato come un esempio di rilancio, no? Di innovazione nei media americani. Poi quel volo assurdo senza l'esperienza necessaria per padroneggiare un piccolo aereo in una situazione atmosferica difficile, e la sua morte insieme alla moglie nelle acque vicino a Martha's Vineyard a soli 39 anni, rinnovando, no, la famosa, ormai leggendaria, questa è vera materia prima della cultura popolare, maledizione dei Kennedy, che in un modo o nell'altro trovano sempre la strada per mettersi nei guai. Torniamo in Cina, perché il fiume di notizie dallo Xinjiang e sullo Xinjiang prosegue inarrestabile e direi anche piuttosto contraddittorio. Intanto oggi l'agenzia Nuova Cina ha tirato in ballo un funzionario del governo locale perché ha aggiornato, purtroppo, a salire il bilancio delle vittime. Siamo arrivati a 192 morti degli scontri di domenica 5 luglio ad Urumqi. Però direi che da un punto di vista soprattutto politico, la notizia del giorno è che tra Turchia e Cina, Stefano, siamo ai margini quasi, se non oltre, dell'incidente diplomatico, perché ci sono parole di fuoco da una parte e dall'altra. I turchi sono stati tra i pochissimi, devo dire, fuori dai confini cinesi ad entrare con prepotenza nella vicenda, hanno difeso i fratelli musulmani, c'è una contiguità storica, culturale, e il primo ministro Erdogan ha usato una parola che in Turchia naturalmente ha un significato fortissimo, oltre che naturalmente di per sé, cioè quella di genocidio, che è quasi un'ossessione, no? Diciamo prima di andare in onda. Ed è quasi una rivincita. Per i turchi, dice Erdogan che gli incidenti nello Xinjiang si possono identificare con un genocidio. Naturalmente i cinesi l'hanno presa malissimo, e oggi c'è sempre su China Daily un editoriale di fuoco dal titolo inequivocabile Don't Twist Fact, non stravolgere i fatti, in cui di fatto il governo cinese invita Erdogan e tutta la Turchia a ripensare le sue posizioni riguardo allo Xinjiang, che rimane un fatto interno dei cinesi. Sì, sì, ma c'è una ferita aperta, indubbiamente, la questione del genocidio degli armeni, che, certo, come ricorderete, è stata riaperta proprio al congresso americano di recente. La definizione, la stabilizzazione di quei fatti come un genocidio è stata, come dire, un colpo durissimo anche alla dignità turca nelle relazioni internazionali, che si colga l'occasione giusta per rilanciare in senso opposto, ovvero in senso vittimistico, sembra, come dire, una strategia diplomatica. Anche una notizia arriva dall'Honduras, questo Honduras che non trova più pace e soprattutto non trova più un presidente degno di questo nome. È sceso in campo un altro destinato a sparigliare le carte, ovvero Chavez, il presidente del Venezuela, che ha smentito gli articoli apparsi nella stampa dell'Honduras che danno del narcotrafficante al presidente Zelaya, che è fuori dalla porta di casa e quindi difficilmente può rispondere. Ci pensa per lui Chavez, che dice La stampa del paese centroamericano ha scritto che dal giorno del golpe lo scorso 28 giugno a Tegucigalpa non arrivano più i misteriosi voli venezuelani carichi di dollari e droga. Pur di giustificare il golpe e far cadere i governi si utilizza ogni tipo di mezzo. Di fatto non ci sono passi avanti, la tensione è stabile in Honduras, sembra che anche l'intervento di Chavez francamente non porti miglioramenti, rasserenamenti a uno scenario preoccupante. No, si dice a volte ritornano. Bene, è tornata in prima pagina sui giornali italiani la pandemia da virus H1N1, altrimenti conosciuta come la febbre suina, e con dati allarmanti, dati che riguardano non l'Italia in questo momento, altre nazioni. In particolare la situazione sembra essersi aggravata ed essere divenuta piuttosto preoccupante al di là della Manica, nel Regno Unito, dove il numero incrementale di contagi è molto elevato, anche se la gravità della malattia in se stessa non sembra per ora raggiungere livelli preoccupanti. Ma la sensazione è un po' che al confronto con la rapidità di circolazione delle notizie a cui ci siamo abituati in questi ultimi anni, ovvero praticamente istantanea, non appena viene individuato un ceppo pericoloso, malefico come questo e la sua possibilità di circolazione, in un certo senso tutto il mondo ne è informato e si accendono arrivano subito i sistemi di allarme, anche in un certo senso i sistemi di paura, di preoccupazione da parte degli abitanti anche di paesi anche molto lontani. Invece il contagio viaggia a una velocità sua che forse è la stessa di tanti anni fa, di tante altre occasioni simili. Si direbbe che il contagio va piano ma va lontano, ma ci arriva con il proprio ritmo, per cui questa notizia che ci sembra già appartenere al passato, no? Già consumata, già a ieri, in realtà poi sta per caderci sulla testa, se possiamo dire così, prossimamente, nei prossimi mesi, per cui si parla di possibili 4 milioni di casi entro marzo 2010, insomma a cavallo del prossimo inverno. Per avere chiarezza sia su come siano gli andamenti di questa pandemia nel mondo, sia dei pericoli che riguardano il nostro paese, abbiamo contattato in diretta da Zurigo Giovanni Maga, virologo, primo ricercatore del CNR, che dirige l'Istituto di Genetica Molecolare di Pavia e che ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Buon pomeriggio, Maga. Buongiorno, mi permetto di fare una piccola precisazione per certo. Non offendere nessuno. Io dirigo il laboratorio di virologia dell'istituto. Il direttore dell'istituto è il mio collega amico Giuseppe Viamonti. Perfetto, mi sente. Scusate, certo, scusateci del refuso. No, ma insomma, questa questione della diversa velocità dei virus e delle notizie, che sono un po' virali anche quelle, però è un problema. È come se la gente si preoccupa, no? Il pubblico impara a sintonizzarsi sul problema troppo in fretta e quando poi il problema può essere tale, in un certo senso lo ha già consumato. Esiste uno scenario di questo genere? Ma sicuramente, io leggevo recentemente uno studio riportato su una rivista in lingua inglese proprio di public awareness, cioè di percezione da parte del pubblico nella fattispecie del rischio dell'influenza, chiamiamola, della nuova influenza di origine suina. Certo. E effettivamente quello che è emerso è proprio quanto mi stava dicendo, cioè a fronte di una ipersollecitazione da parte dei media quando il problema è ancora geograficamente e temporalmente lontano, la percezione del pubblico è che nei mesi successivi il problema non esiste più, mentre invece si sta avvicinando. Che, quindi... che ci sia andata bene in un certo senso. Sì, per cui diciamo che è importante mantenere continuamente, diciamo, l'informazione, ovviamente senza creare allarmismo, ma neanche senza indurre un falso senso di tranquillità, come se appunto il problema non esistesse più. Viceversa, noi abbiamo scoperto il problema quando riguardava ad altri per poterci preparare quando arriverà. Certo. A casa nostra. Ma mi tolgo una curiosità da consumatore, da probabile vittima, insomma, di influenze di questo genere, ma che differenza ci sarà all'arrivo di questa influenza suina rispetto agli stagionali arrivi assai virulenti nelle ultime annate delle altre influenze, magari senza nome o con sigle meno popolari? Ma, diciamo che adesso in questo momento il virus si sta diffondendo nell'emisfero australe, quindi in maniera concomitante ai virus influenzali classici, perché la loro stagione influenzale ovviamente sta avvenendo in questi mesi. Sì. Quindi verosimilmente arriverà alle nostre latitudini insieme ai virus che normalmente circolano in questi anni nella popolazione umana. Questo cosa significa? Che a seconda di come questo virus diciamo si manifesterà nella popolazione potremmo non accorgerci di nulla. Certo. O sperimentare un'influenza con delle caratteristiche un po' più aggressive rispetto al normale. Al momento il virus ha mantenuto le caratteristiche che aveva all'inizio e quindi è un virus che induce una patologia piuttosto mediocre come sintomatologia complessiva, che non sembra avere un tasso di pericolosità e quindi di complicazioni superiore ai normali virus influenzali, anzi per quel che riguarda il tasso di mortalità, con diciamo ovviamente il rispetto per le persone che purtroppo soccombono, è inferiore a quello dei virus attualmente circolati nella popolazione umana. Quindi la proiezione potrebbe essere quella di un'influenza che invece che è causata dai tre ceppi classici, quindi il nostro vaccino adesso sarà un vaccino triplice, ne avrà in aggiunta un quarto. Certo. Allora il punto critico è vedere questo virus come si diciamo comporterà durante la stagione influenzale australe, per capire se aggraverà in maniera significativa, diciamo, l'esito della stagione nostra, oppure se, come tutti speriamo, non causerà dei, diciamo, delle ricadute dal punto di vista della salute pubblica importanti. Certo. È chiaro che, essendo un virus nuovo e quindi per il quale non esiste praticamente un'immunità acquisita, è importante predisporre dei piani che consentano di aumentare i livelli di protezione, ecco, della popolazione. Si parla infatti di vaccinazione per oltre 8 milioni di italiani, però mi sembra di capire, si parla anche, come si dice nell'universo anglosassone, di un certo media hype, no? Di una sovraesposizione del caso, in mancanza per ora di riscontri. Insomma, si è guadagnata molta popolarità questa malattia. È al punto che esiste questa proposta, a parer mio un po' demenziale, insomma, ma formulata dal assai rispettato quotidiano francese Le Monde, che parla di una specie di scelta kamikaze, ovvero di valutazione della possibilità di esporsi frequentando ambienti molto con molte persone, con tutti, diciamo, tutte le caratteristiche necessarie a beccarsi un malanno, no? Ambienti fumosi, addirittura contatti ravvicinati, possibilmente addirittura fisici, con tante altre persone, magari alcune delle quali già portatrici del virus, per fregare il virus stesso, ovvero per anticiparlo e magari immunizzarsi intercettandolo quando è ancora in forma lieve. Ma è una non le sembra un po' criminale come indicazione da parte, diciamo, di un giornale? Io la prendo come un'uscita così estemporanea, provocatoria, se vogliamo anche un po' comica, ma che non ha fondamento dal punto di vista epidemiologico, nel senso che anche un po' nichilista, insomma, abbiamo le nostre possibilità di non prenderla, no? Ma diciamo, il virus influenzale si trasmette molto facilmente, certo. Questo lo sappiamo tutti, quindi vivendo la nostra vita normale abbiamo già un'alta chance di prenderlo, e non è che esponendosi a una certa settimana della stagione il virus fa meno male o causa, diciamo, i sintomi più lievi che 3 settimane dopo. Certo. Quindi, allora, se non ci si vaccina, l'unico modo di acquisire l'immunità è ammalarsi, certo, e poi guarire. Quindi alla fine non vedo un grosso vantaggio. Non so. Comunque arriva proprio in questo momento, mi hanno appena passato una agenzia che dice che in Belgio sarebbe stato mobilitato addirittura l'esercito, Maga, per distribuire su tutto il territorio circa 900.000 maschere, 900.000 dosi di antivirale, in previsione di una recrudescenza dei casi di nuova influenza causata dal virus H1N1, lo ha annunciato il ministro della difesa a un'emittente televisiva. Quindi però ci sono questi sussulti di allarme, non dico estremo, insomma, ma allarme arancio, diciamo. Ma guardi, io ho avuto modo così di seguire, sia per interesse professionale che anche proprio da comune cittadino, i vari allarmi epidemia che si sono seguiti negli ultimi anni, a cominciare, se lei si ricorderà sicuramente, del virus Ebola, metà degli anni 90, certo, poi la BSE, la famosa mucca pazza, e di nuovo la SARS, e poi l'influenza, certo, aviaria. Allora, quello che si vedeva sempre era un certo scollamento tra gli elementi oggettivi che potevano indurre a valutare più o meno un certo tipo di rischio e la reazione da parte delle strutture, diciamo, pubbliche o governative. Scollamento in questo senso che molto spesso si beccava per un eccesso di prudenza, che nel campo della salute pubblica è sempre consigliabile, certo, ma che in certi casi ovviamente ha causato più problemi che benefici. Adesso io non so se il Belgio ha una situazione così... Finora, diciamo, in Belgio i casi registrati sono 100. Sì, adesso io ho qui davanti anch'io la tabella dell'OMS, no? Ma diciamo, quello che dicevo, io non so se il Belgio ha delle strutture, per così dire, civili, sanitarie così fatiscenti da dover richiedere l'intervento dell'esercito, certo. Penso di no, perché è una nazione altamente, diciamo così, tecnologizzata. Mi sembra un tantino esagerato, no? Quindi è importante anche non dare l'impressione al pubblico, perché queste cose, come dice lei, sono immediatamente percepite, certo, non solo in Belgio ma ovunque, certo, che ci stiamo avviando verso una catastrofe, certo, non certo è così. Al momento non c'è nessun elemento che ci debba causare più preoccupazione di quella che è espressa dai, ad esempio, dalle politiche suggerite dall'OMS, che sono, secondo me, perfettamente in linea con quanto sappiamo. Bene, la ringrazio del suo intervento e anche, mi sembra, della sua, dei suoi pareri piuttosto tranquillizzanti, soprattutto equilibrati. Era Giovanni Maga, virologo che lavora all'Istituto di Genetica Molecolare di Pavia. E diamo ora la linea al traffico e poi chiudiamo andando a vedere come funziona, come sta andando la Via Crucis, ormai la chiamerei così, a cui è sottoposto Sonia Sotomayor, il futuro giudice della Corte Suprema americana. I do ask tough questions at oral argument. Are you the only one that asks tough questions in oral argument? No, no, not at all. I can only explain what I'm doing, which is when I ask lawyers tough questions, it's to give them an opportunity to explain their positions on both sides. La sentite un po' affaticata? Beh, l'impressione che avete è quella corretta, perché la stanno facendo letteralmente a pezzettini, l'hanno messa a sedere su quello scranno e le stanno chiedendo praticamente ragione di qualsiasi atto, gesto o espressione che abbia prodotto nel corso di tutta la sua vita. Così si diventa giudici della Corte Suprema. E se me la passate, così si diventa giudice della Corte Suprema ancor di più se siete una donna portoricana che ha prodotto nel corso della sua carriera una notevole escalation fino ad arrivare a un passo, a un sospiro, a un capello da quella poltrona, che, come vi dico sempre, vale poi per tutta la vita. Se si diventa giudice della Corte Suprema si prendono decisioni insieme ai propri 8 colleghi sugli andamenti, sulle cose importanti che regolano la società americana fino al momento della propria morte o fino al momento in cui si decide di dire basta e ci si dimette, come è capitato appunto per il giudice Souter, a cui subentra Sotomayor. Di grande interesse l'incontro tra la commissione di giudizio e la Sotomayor. Quello che avete ascoltato prima era il repubblicano Lindsey Graham, che dopo aver premesso che a lui personalmente Sonia sta molto simpatica, poi l'ha fatta nera, gli ha detto: dunque, qui abbiamo una serie di accuse al suo carico, lei sarebbe un giudice attivista, un giudice prepotente, un giudice arrogante, un giudice che ama maltrattare gli avvocati, umiliarli, che usa il codice a proprio uso e consumo e via di questo passo. E poi gli ha detto: ma lei forse ha un problema caratteriale? E Sotomayor ha preso un po' di appunti, poi ha abbassato il capino, secondo me avrebbe avuto voglia di alzarsi e andare a dare due sberle al senatore repubblicano, ma chiaramente non poteva farlo, e ha risposto, ha detto: beh, effettivamente io sono una un po' tough, un po' dura con gli avvocati, ma anche perché ho lavorato in un'area di amministrazione della giustizia, geograficamente parlando, in America, nella quale esistono delle regole particolari. Per esempio, esistono dei tempi all'interno del quale gli avvocati devono gestire le loro domande, le loro risposte, e allora voglio che facciano domande e ottengano risposte altamente significative nel corso di una causa, in modo di permettere a me, che di mestiere ho fatto per tanti anni il giudice, di raggiungere il verdetto migliore possibile. Mentre Sotomayor parla, continuano gli arresti nell'aula all'interno della quale si sta tenendo l'audizione, perché siamo arrivati a quota 5. È stato infatti portato via di peso un gigantesco attivista anti-aborto, che a un certo punto si è alzato, e per era il quinto caso nel corso di questa audizione, ha cominciato a urlare: she's a baby killer, lei è una assassina di bambini. E è intervenuta la polizia del Congresso e l'ha portato via, il quarto a partire da quando è cominciato questa audizione al Senato. Ci sono ancora: nutro la speranza che una saggia donna latina con una ricca esperienza di vita possa avere come giudice una capacità di giudizio in molti casi migliore di un uomo bianco, ha detto ad esempio il repubblicano dell'Alabama Jeff Sessions, prima però a sua volta di rinfacciarle di aver esternato in più occasioni la convinzione che la razza in America sia ancora un distinguo troppo importante. Insomma, dopo averle rinfacciato ancora una volta la questione dell'attivismo giudiziario, ovvero di non usare i codici della legge americani in quanto tali, in quanto oggettivamente tali, ma di adattarli, come viene rinfacciato di fare ai giudici attivisti, di adattarli ai singoli casi, e laddove sia in giudizio il caso di una minoranza, che questi codici vengano adattati alle necessità e in un certo senso anche al bisogno di risarcimento di quella minoranza stessa. Una lunga procedura, ma che porterà, credo con buona certezza, spero entro la giornata di oggi, alla ufficializzazione della nomina di Sotomayor a nono giudice della Corte Suprema americana. Tanti messaggi. Ho vissuto per anni a Bruxelles, scrive Veronica. In Belgio si usa l'esercito normalmente, anche quando c'è uno sciopero. Ecco la risposta ai dubbi di prima. Possibile che nessuno dia con chiarezza i reali sintomi di questa influenza, ma mi sembra che sui giornali se ne parli, i numeri e sintomi siano ampiamente, forse fin troppo, pubblicizzati. Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Valeria Bernardi, a Milano Jefferson 2, alla mail, scusate, jefferson2@radio24.it, scusate, su Facebook redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24. Express Yourself, come di consueto, replica a mezzanotte, diretta dopo le 4 qui su Radio 24. Insomma, l'influenza suina è ancora lontana, quindi state bene. 变来变去，都只是游戏。